Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Sono all'interno delle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, dove è allestita una mostra veramente mozzafiato. È dedicata a due parenti, Antonio Canal, detto il Canaletto, e il suo giovane nipote Bernardo Bellotto, i più grandi vedutisti italiani del 1700. Lavoravano insieme, Canaletto era il maestro di Bellotto e inizialmente naturalmente seguirono insieme la professione. Questa mostra ci fa vedere però come Bellotto si è staccato dallo zio, anzi è diventato forse più bravo e non più famoso, perché lo zio è sempre rimasto molto famoso, ma certamente in grado di insidiare la grandezza del più celebre Canaletto. Infatti Bellotto mette a punto, pur imparando esattamente come si facevano le vedute da suo zio, usando la camera ottica, cioè una scatola dove si poteva riprodurre all'interno i flebili contorni delle case, delle chiese, e riprodurlo su un foglio di carta oleata. Bene, impara tutte le tecniche, però si distacca dallo zio. Nella mostra si capisce molto bene, guardando i quadri, che Bellotto è meno poeta, cioè è molto più freddo, più razionale, va a controllare nei dettagli, che le screpolature dei muri di Venezia, gli edifici, la sporcizia anche che si accumulava sui campanili e sulle chiese fosse reale. Quindi è un vedutista più vicino alla realtà di suo zio, che invece addolciva con dei cieli meravigliosi, con delle acque un po' sommarie, queste sue vedute che tanto dovevano andare in mano agli inglesi e ai grandi collezionisti, che non stavano certo a guardare nel dettaglio se le riproduzioni erano state fatte in modo esatto. È una storia molto interessante, perché tutti e due questi artisti che cominciano a lavorare in Italia, in particolare a Venezia, nel Veneto, in Lombardia, eccetera eccetera, a Roma, dove vanno tutti e due, a un certo punto devono fare fortuna all'estero, e lì le due strade si dividono. Canaletto va a Londra e diventerà il grandissimo Canaletto, celebre in tutte le collezioni reali inglesi, infatti la regina d'Inghilterra ne possiede moltissimi di quadri di Canaletto. Bellotto punta al centro dell'Europa, va prima a Dresda, dove fa queste meravigliose vedute della città, che sono quasi tutte esposte a Milano, quindi l'occasione di vederle è eccezionale. Poi, visto che scoppia la guerra tra la Prussia e la Sassonia, deve andare in altre città, andrà a Vienna, andrà a Monaco di Baviera, poi decide di andare a San Pietroburgo. Non ci arriva, si ferma a Varsavia, ma lì realizza ancora una volta una tale quantità di meravigliose vedute che, quando Varsavia verrà bombardata nel 1945, si useranno le vedute di Bellotto per ricostruirla esattamente come era.